sorrido perché c'era un ascoltatore che prima ancora di sentire i 100 secondi già diceva che sarebbero stati un elogio, un ottimismo di maniera, un ottimismo filo governativo. Non mi sembra proprio che Alberto Orioli abbia dedicato nello spazio dei 100 secondi tutto questo margine all'ottimismo di maniera. Gli indicatori infatti sono incerti, lo ricordava anche lui, ci rifornisce l'Istat, c'è un rallentamento in corso della crescita prevista che ormai ripete qualunque soggetto, dalla Commissione Europea alla Banca Centrale Europea. Le cause le abbiamo spiegate molte volte, le cause di carattere internazionale, perché non mi sembra che qua qualcuno stia definendo la situazione rosea o brillante. Abbiamo appena fatto intere puntate ragionando su che cosa, quali potrebbero essere le variabili negative, le variabili che preoccupano anche la Banca Centrale Europea per quello che riguarda i mesi a venire, per cui restiamo sulle notizie di carattere internazionale invece, perché oggi la Russia ha fatto il calcolo di quanto è stato il danno subito dalla sua economia dal calo del prezzo del petrolio e anche dalle sanzioni per via della vicenda ucraina. 600 miliardi di dollari di danni nel periodo tra il 2014 e il 2017. I proventi tra l'altro della Russia dall'esportazione di petrolio nel 2015 sono crollati del 41,7%, cioè 89 miliardi di dollari, 90 praticamente, contro gli oltre 120 miliardi del periodo precedente. Per quello che riguarda l'economia internazionale, ma in questo caso gli Stati Uniti, il tasso di disoccupazione oggi è sceso ulteriormente al 4,9%, dal 5%, però è rallentata la crescita di posti di lavoro, quindi l'America continua a creare nuovi posti di lavoro, ma i 151.000 creati a gennaio sono inferiori alle attese che stimavano in 185.000 i posti creati. E ovviamente la Casa Bianca fa notare che la disoccupazione negli Stati Uniti per la prima volta da 8 anni, e quindi da quando è scoppiata la crisi, per la precisione dal febbraio 2008, quindi prima ancora del crack di Lehman Brothers, da 8 anni non era mai scesa sotto il 5%. Chi invece vede peggiorare i suoi conti è il Brasile. Se infatti nell'area euro, come ricorda Mario Draghi, manca l'inflazione, cioè un'inflazione che è ancora troppo bassa e rischia la deflazione, il Brasile ha il problema opposto, nel senso che nell'ultimo anno l'inflazione in Brasile ha toccato il 10,70% e è accelerata anche a gennaio, 1,27% mese su mese. Ed è il tasso più elevato dal 2003. Spostiamoci in Europa. Oggi telefonata, conversazione telefonica tra il premier francese François Hollande e il presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi. Al centro del colloquio, da quello che si è capito, uno scambio di idee sulle questioni dell'agenda europea, dalle prospettive del negoziato con la Gran Bretagna alla situazione migratoria e anche alla necessità di un rilancio dei temi della crescita, di un rilancio di forte impegno europeista, cita la nota di Palazzo Chigi, e di una politica economica centrata sulla crescita e la creazione dell'occupazione. Mentre dalla Germania arriva una notizia non buona per le imprese tedesche che a dicembre hanno segnato un calo dello 0,7% negli ordinativi alle imprese, però comunque il trend resta, sottolineano vari rapporti per le società tedesche, resta positivo soprattutto verso i paesi esterni all'area euro, più 5,5%. Ancora due notizie, poi passiamo alla borsa e poi alla classifica, la poco invidiabile classifica. Allora, l'ILVA, la Procura di Taranto, ha reiterato la richiesta di rinvio a giudizio per i 47 imputati, sono 44 persone fisiche e 3 società, per l'inchiesta sull'ILVA denominata Ambiente Svenduto. E questo, i pubblici ministeri si sono riportati le conclusioni della requisitoria della precedente udienza preliminare. L'avvocato poi Sergio Torsella, a nome delle parti civili, ha chiesto ugualmente il rinvio a giudizio degli imputati, quindi la discussione avverrà il 10, 12, 15, 16, 17, 23, 25 febbraio. Ricordo che tra gli imputati ci sono i fratelli Fabio e Nicola Riva, il primo e l'unico detenuto del processo, e esponenti politici, tra i quali l'ex governatore della Puglia Nichi Vendola, amministratore in carica o degli anni passati, come l'attuale sindaco di Taranto Ezio Stefano, anche coinvolti nell'inchiesta anche funzionari ministeriali e regionali e i dirigenti dell'azienda siderurgica. Però c'è un ricorso di Riva Fire al TAR del Lazio, lo anticipa l'ANSA, in cui l'ILVA, durante la gestione Riva, sostiene il ricorso, operava nei limiti per le emissioni atmosferiche stabilite dall'AIA e rilasciate dal Ministero dell'Ambiente nel 2011, mentre per quello che riguarda sempre il ricorso di Riva Fire, che è la società al TAR del Lazio, c'è anche un'accusa al commissario Piero Gnudi. L'ILVA è stata gestita in perdita e privata di qualsiasi prospettiva industriale sin dal suo insediamento. Il commissario Gnudi ha mostrato di considerare la vendita dell'impresa l'unico possibile esito della procedura, e il gruppo Riva ha presentato ricorso al TAR per ottenere l'annullamento del decreto ministeriale che permette la cessione dei complessi aziendali di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Ultima notizia riguarda il bilancio di Intesa San Paolo, che ha chiuso il 2015 con un utile netto di 2 miliardi e 740 milioni di euro, in netto aumento rispetto al 1 miliardo 250 milioni di euro del 2014. E l'utile, praticamente, se si esclude il contributo straordinario al fondo di risoluzione, sarebbero 3 miliardi di euro. E sostanzialmente la proposta di dividendi da distribuire di 2 miliardi e 400 milioni di euro contro i 2 miliardi previsti nel corso dell'anno. Visto che parliamo, tra l'altro anche il quarto trimestre inutile netto di 13 milioni, senza i salvataggi, il contributo al fondo di risoluzione bancario, i salvataggi che sono serviti anche per le quattro famose banche, il risultato tra ottobre e dicembre sarebbe stato pari a 263 milioni di euro. Vediamo a questo punto anche la borsa, e allora faccio notare che il miglior titolo oggi è CNH Industrial, più 7%, poi c'è Banca Mediolanum, più 5,40%, Monte dei Paschi, più 3,70%, UbiBanca, più 2,40%, bene anche Tenaris, più 1,80%, e Fiat Chrysler, più 1,40%, Buzzi Unicem guadagna l'1%. Chi va peggio? Allora, Poste Italiane meno 5,30%, come Finmeccanica e la Pop Milano, il Banco Popolare meno 5%, poi Moncler meno 4,80%, Unipol meno 4%, Jux Net-a-Porter meno 3,70%, Unipol Sai perde 3,5 punti, come ST Microelectronics, Enel Green Power il 3,30% di calo, come Intesa San Paolo, il 3,1% lo perde sia Telecom Italia che Enel, che A2A. Non ho dato il petrolio, avete ragione, ma è a $31.50 al barile, leggermente in discesa oggi di circa 0,5 punto percentuale. (349) 238 6666 per i vostri sms, per WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora partiamo dalla nostra classifica. La classifica della settimana. Allora, vorrei, è chiaro che tutti vi aspettate la Fittopoli romana, certo anche oggi sui giornali la lista non tanto delle abitazioni per privati, ma dei luoghi, degli impianti, dei luoghi fisici a affitti irrisori, il galoppatoio di Villa Borghese a 231 euro l'anno, insomma, vi arriveremo, però questa, diciamo, è notizia di cronaca. Ci sono altre cose che, come sempre, i collaboratori del programma, quindi Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, scovano nella stampa locale, non solo quella nazionale, che meritano un'evidenza, anche perché sennò sfuggono. Io vorrei partire, perché lo citammo anche nelle nostre notizie in breve, dalla vicenda spese pazze del Consiglio regionale Ligure, perché è in imbarazzo, lo posso capire, il governatore della Liguria Toti. E aveva fatto anche una dichiarazione: beh, esiste ancora lo stato di diritto, aspettiamo i giudizi, e ci mancherebbe. Noi abbiamo uno stato di garanzia e ci mancherebbe. Dopodiché bisogna anche stare attenti che qua non è... di che cosa vengono accusate queste persone. Esiste lo stato di diritto e la garanzia fino all'ultimo grado, però vediamo. Allora, che cosa è successo? Il GIP Roberta Bossi ha rinviato a giudizio da un lato Edoardo Rixi, quello più conosciuto, andrà a processo l'8 giugno per le spese pazze sostenute dai gruppi regionali dal 2010 al 2012, conosciuto perché è il vice di Matteo Salvini alla Lega Nord, ma anche un altro personaggio, Francesco Bruzzone, che attualmente è presidente del Consiglio regionale Ligure. Le accuse sono peculato e falso. Poi c'è Maurizio Tortorello, ex consigliere della Lega, ha già patteggiato 2 anni. Ridotte le accuse a carico dell'ex capogruppo democratico Antonino Miceli, per i quali sono caduti 2 dei 3 capi di imputazione, sempre per peculato, ma ne resta un terzo da 38.000 euro di scontrini da giustificare. Va detto che la Lega Nord ha già restituito 80.000 euro alla Regione, dopo che la Guardia di Finanza aveva iniziato a verificare la legittimità delle spese, però questo non basta a Rixi, perché per difendersi dalla contestazione di avere rendicontato nella sua veste di capogruppo decine di migliaia di euro di spese su dei suoi compagni di partito. Allora io dico, è ovvio che su questo è inutile essere manichei e nessuno di noi se la prenderà mai sulle birre o sui caffè, però ci sono delle cose, dico birre e caffè perché c'era anche in questa inchiesta, ci sono anche 15 scontrini di file messi dallo stesso bar, ma non diventiamo, diciamo, dei Savonarola, però cerchiamo di non essere presi in giro, visto che esiste lo stato di diritto e la garanzia, perché difficile giustificare 1.774 euro nella pelletteria di lusso a Tolentino, oppure gli acquisti al Chocolate Town all'outlet di Serravalle come attività politica. C'era poi la famosa affaire Quadrifoglio, un ristorante di Carcare, fonte inesauribile di ricevute per un consigliere che è stato inguaiato da questo, Maurizio Tortorello, appunto, quello che ha patteggiato 2 anni perché, insomma, sostanzialmente gli scontrini venivano dimenticati dai ignari clienti e lui li presentava a rimborso. Tutto normale, ma c'è lo stato di diritto. Alla Lega Nord il magistrato contesta pure di aver speso soldi pubblici per viaggi in mete turistiche come Courmayeur, Limone Piemonte, Osti, vabbè. Però dice, sai, Limone Piemonte, Courmayeur, Aosta sono nella tua area, è un po' più difficile giustificare Venezia o Pisa, o il fatto che molti pranzi e cene si collocassero in giorni festivi, pranzi e cene di lavoro come Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio e Ferragosto, e meno male che abbiamo abolito le altre festività, diciamo, che c'erano qualche anno fa. Va bene, poi un consigliere si è fatto rimborsare anche una notte passata in un motel a Broni, stendiamo in provincia di Pavia, stendiamo un velo pietoso sul motel. Però ci sono anche le ostriche consumate al Caffè de Turin di Nizza. Lì inizia difficile capire che tipo di attività politica fai con le ostriche. E menù bambini e cenoni di Capodanno. Poi c'è il mito, che a me fa impazzire questo, 84 scontrini in uno stesso ristorante di Savona. 84, che ha magnato. E poi il dono dell'ubiquità, perché, ripeto, lo stato di diritto esiste, la garanzia fino all'ultimo grado, però ci sono delle cose difficili poi da giustificare, mi riferisco al vice segretario federale, appunto, che è del famoso dono del teletrasporto. Cioè, siamo uno stato di garanzia di diritto e anche lo stato del teletrasporto. Come fa ad essere lui, infatti, a farsi rimborsare l'autostrada per un viaggio a Milano per espletamento del mandato popolare, ma dal telepass risulta invece ad Aosta e lì il mandato popolare verrebbe espletato in un altro modo? Come fa a farsi rimborsare viaggi a Cremona quando la Guardia di Finanza scopre, analizzando i passaggi di Caselli, che si trovava alla Spezia? Ah, che difficile. E come fai a essere alla Spezia quando la tua macchina girava tra Genova Est e Ovest? Ci sono 2 possibilità. O c'è il teletrasporto o scopriamo che la macchina faceva una cosa e il vice segretario federale non stava in quella macchina lì. A quel punto inizia, cioè, lui arrivava sempre dopo dove arrivava la macchina. Forse era una vedetta, forse era così, una macchina che anticipava l'arrivo. A quel punto la domanda è: come si sarà mosso il vice segretario federale? In bici? In motorino? Non lo so. Andiamo al secondo, scusatemi, al quarto posto. No, qui rido perché non so se ce la faccio a leggerla questa, ma in realtà il tema è serio, perché la dice lunga su cosa, come cavolo uno, quando uno non sa come spendere i soldi, cosa si inventa. Allora andiamo a Noto, in Sicilia, patrimonio UNESCO, il barocco di Noto, bellissima città, necessita di un po' di manutenzione. C'è un problema: siccome appunto è il barocco, diciamo, tutelato dall'UNESCO, il comune ha un problema con i piccioni, non sto scherzando, ha un problema con i piccioni del Duomo. Allora decide di far sorvolare il centro storico di Noto dai falconi, un accordo a 20.000 euro con la scuola di falconeria. Io manco sapevo ci fosse la scuola di falconeria, e stanzia questi primi 20.000 euro per far allontanare da chiese e monumenti i piccioni, affidandosi ai falconieri. Ora, a parte il fatto che voi immaginate, uno arriva a Noto, vuole vedere il barocco, trova tutti questi falconieri con i falconi, Robin Hood, ma che è lo sceriffo di chi era? Di Sherwood? Vabbè, ma il problema è un altro, che si è arrabbiata anche la LIPU, che cita anche l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, perché il tema degli uccelli, diciamo, negli aeroporti e sulle piste di atterraggio è un tema serissimo. E la LIPU, che è la Lega per la Protezione degli Animali, ricorda, Federico Militello della LIPU di Siracusa, ricorda due banalità. La prima è: in natura il predatore e la preda convivono sempre negli stessi ambienti, quindi è altamente improbabile che il sorvolo di un rapace possa far allontanare tutti i piccioni presenti in quel luogo. Ok, il falco pellegrino, specie molto abile nel predare altri uccelli, ha già colonizzato 21 città italiane. A Torino, continua la LIPU, nidifica sulla Mole Antonelliana, a Firenze sul Duomo, a Roma nei palazzi dell'università, eppure i piccioni non sono spariti nei rispettivi centri storici. E già questo dovrebbe essere un buon motivo per non spendere 20.000 euro per i falconieri e per i falchi. La foresta è quella di Sherwood, ha ragione lo sceriffo, era quello di Nottingham, chiedo venia. Ma c'è un altro aspetto: l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ricorda che ha diramato una circolare ad hoc in cui si contesta l'utilizzo di falconi, perché dice: il falco, cito testualmente, un falco può cacciare soltanto per poche ore al giorno, hai capito, il falco comunque, no? E non può essere utilizzato di notte e nelle giornate con vento e pioggia. Uno può aggiungere, poi avrà diritto anche lui alla corte, al giorno di riposo, alle malattie, ai permessi. Per cui caccia poche ore al giorno, non lo puoi utilizzare di notte e nelle giornate con vento e pioggia, insomma non mi sembra una gran soluzione. Ma al terzo posto, dal quarto posto dei 20.000 euro del comune di Noto per i falconieri, andiamo al terzo posto, e qui il tema si fa ancora più serio. E mi riferisco alla Sicilia sempre, e a come spende la regione Sicilia i contributi per le società sportive. Allora decidiamo: nel mondo in un mondo normale, uno con i soldi che ha, che non sono tanti per carità, dovrebbe cercare di darli a quelle attività, concentrarli, non tutti in un soggetto, ci mancherebbe, ma almeno non disperderli. Invece riesce a distribuire i soldi talmente a pioggia che non servono a nulla. Faccio un esempio: che senso ha dare 110 euro a testa a ognuna delle 7 squadre di badminton? 110 euro a squadra, ma che te fai? 110 euro a testa per le 3 squadre di pallamano di Palermo, Catania e Messina, a testa, a squadra. O 110 euro per il gruppo sportivo Canoa Catania, anche perché fanno notare che una canoa gonfiabile, per chi si avvicina a questo sport, costa 134 euro. Per vestire i giocatori di una squadra di pallamano, che sono 7, senza le riserve lasciamo nude, si cambieranno la maglia, però servono 210 euro. E nel frattempo dà soldi anche a chi non ne ha bisogno. Che senso ha dare al Trapani, che gioca in Serie B, 3.150 euro, di cui non se ne fa niente, ma magari potevano essere più utili per un'altra cosa, quando il Trapani ha un valore, diciamo, di giocatori a cartellino da 9.300.000 euro? Beh. Che senso ha essere così in ritardo, dare un contributo di 2.400 euro alla Ludos, società di calcio femminile, per la stagione 2014-2015? Peccato che nel frattempo non è riuscita a iscriversi al campionato di Serie B perché le mancavano i fondi, ed è ripartita dalla Serie C e non può avere i fondi per la Serie B. Miracolo, eh? E poi ci sono, insieme, adesso non mi voglio annoiare, di casi in cui sostanzialmente la lentezza nell'erogare questi fondi non ha permesso alla società di calcio femminile, piuttosto che di serie minori, di iscriversi al campionato, con la chicca finale, perché intanto i soldi non saranno disponibili da subito. I beneficiari devono presentare la documentazione necessaria entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che è avvenuta il 22 gennaio. Occhio, perché c'è una trappolina, nel senso che il sito di riferimento del CONI pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale è sbagliato. Ma come si fa a vivere in un paese così? Si riesce a sbagliare anche il sito di riferimento del CONI sulla Gazzetta Ufficiale. Prova che se lo fa qualunque impiegato viene ripreso dal suo responsabile. Allora, se tu fai sull'indirizzo conisicilia.it si apre un aggregatore di notizie che non ha niente a che fare con il CONI, e meno male che si apre quello. Il sito corretto è www.sicilia.coni.it, per cui attenzione, piccole società, se avete i soldi non solo dovete fare in fretta, ma non sbagliate sito, perché se finite su conisicilia.it andate da tutt'altra parte. Dopo il meteo e la pubblicità, le dosi di Malox aumentano, perché chiuderemo con un ex deputato condannato che ha riottenuto il vitalizio con gli arretrati. È il caso più clamoroso in cui una volta tanto la regione è vittima ed è il giudice che le dà torto, e parliamo sempre di reintegri di dipendenti pubblici. 349-238-6666 per gli sms la pagina, e per WhatsApp la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 dopo il meteo. Focus Economia. Minuti, andiamo al secondo posto della nostra poco invidiabile classifica, e lo vince Gianmario Pellizzari. Chi è? Allora, è l'ex presidente della Coldiretti Veneta ed è sostanzialmente colui quale per primo sta sperimentando le maglie larghe della famosa legge introdotta, delle regole introdotte l'anno scorso dal Parlamento sui vitalizi. Le regole prevedono infatti la revoca del vitalizio ai condannati in via definitiva a pene superiori a 2 anni. Che cosa succede? Ora, lui era tra i 10 colpiti lo scorso mese di luglio della nuova disposizione, cioè la revoca del vitalizio. Nel 1996 a Gianmario Pellizzari viene inflitta una condanna a 8 anni per bancarotta fraudolenta. I giudici infatti lo ritengono responsabile, assieme ad altri, del fallimento di una società farmaceutica della quale era stato presidente e che era stata coinvolta nello scandalo degli estrogeni con cui veniva gonfiata la carne bovina. Ed è il motivo per cui questo aveva avuto un effetto anche sul suo assegno, sul vitalizio, che incassava già da molti anni. Pensate infatti, ma questo non è colpa sua, c'è nella legge, che lui aveva lasciato il Parlamento quasi 25 anni fa, però le regole in vigore consentivano ai parlamentari con 4 legislature alle spalle di percepire il vitalizio indipendentemente dall'età, e all'epoca Pellizzari aveva 48 anni, che già che tu abbia una pensione, un vitalizio a 48 anni, non si giustifica, quanto ammonta 5.481,15 euro al mese, diciamo la media dei pensionati italiani, no? Allora, che cosa succede? Dopo la condanna, appena un mese dopo, in realtà lui fa ricorso, passano 6 mesi, e come spesso avviene il tribunale dà riabilitazione, lui si rivolge al tribunale di sorveglianza per avere la riabilitazione, a nemmeno un mese dalla sospensione vitalizia. Nell'arco di 6 mesi gli viene riconosciuta, perché tra l'altro spesso raramente viene negata dai tribunali la riabilitazione. Cosa succede? Che come gli viene data la riconosciuta riabilitazione, lui fa ricorso all'ufficio di presidenza della Camera, che ne ha preso atto ieri e ha prontamente restituito all'ex deputato della DC, il suo, perché era della Democrazia Cristiana, il suo assegno da 5.481,15 euro, ma adesso avrà anche gli arretrati, quelli che gli erano stati, cioè il vitalizio non versato in questi mesi, quindi altri 30.000 euro. Unico a votare contro questo è stato l'esponente del Movimento 5 Stelle Riccardo Fraccaro. Allora, il problema è che, per carità, esiste il diritto civile, ma a suo tempo, se non ricordo male, furono proprio 5 Stelle a dire che se si utilizzava la scappatoia, se si fosse utilizzata la scappatoia della riabilitazione, la scelta avrebbe finito per vanificare gli effetti della decisione da cui si è arrivati con enorme fatica, perché se tu hai la riabilitazione, con la riabilitazione, o meglio, ti viene ridato il vitalizio, insomma, no? Tutto si smonta. Infatti, primo caso, si è già smontato. Ultimo, andiamo all'ultimo posto, quindi al primo posto della nostra classifica. Dicevo, un caso che raramente c'era successo di vedere, è la regione che vorrebbe, diciamo, che venisse preso un provvedimento e non più reintegrato un suo dipendente, e il giudice dà torto alla regione. And the winner is... Beh, the winner is Silvano Grisenti, che è un deputato, un importante politico trentino, molto vicino al deputato Lorenzo Dell'Ai. Non c'entra niente Dell'Ai in questa storia, viene dalla DC, poi dalla Margherita e poi il Partito Autonomista. Che succede? Grisenti nel 2007 viene nominato presidente dell'Auto Brennero, che è una società ricca a controllo pubblico. Un anno dopo si dimette per un'indagine giudiziaria e torna al suo posto di lavoro in regione. Passano gli anni, si svolgono i processi e Grisenti continua a lavorare in regione, ma non molla la politica. Nel 2012 viene rieletto in consiglio provinciale e si rimette in aspettativa dal suo posto in regione. Nel 2015 arriva la sentenza definitiva della Cassazione, quindi fate tutti i tre gradi della Cassazione, che lo giudica colpevole di 3 reati. Ora io vi rileggo e voi mi dite in quale paese al mondo uno che ha questi 3 reati vuole avere il diritto di continuare a lavorare per un ente pubblico. I reati sono corruzione, truffa aggravata e tentata violenza privata. Nello specifico, corruzione per aver chiesto e ottenuto da un imprenditore la promessa di un incarico per il fratello ingegnere. Tentata violenza privata per avere provato a costringere una coppa a rinunciare a un ricorso al TAR che avrebbe penalizzato l'Auto Brennero, paventando in caso contrario conseguenze negative su altri appalti. Truffa per aver organizzato e pagato con la carta di credito aziendale pranzi di natura politica con esponenti del suo partito, spacciandoli per incontri di rappresentanza. Allora, Grisenti viene, dopo 3 gradi, condannato definitivamente a un anno di reclusione. Allora, il Consiglio Provinciale delibera la sua decadenza dalla carica elettiva, come prevede la legge Severino. Grisenti torna a lavorare, però per poco tempo, perché la regione lo licenzia. Grisenti a quel punto ricorre al giudice del lavoro e ottiene ragione. Il giudice Giorgio Flaim dice: attenzione, la condanna penale di Grisenti riguarda un periodo in cui Grisenti era presidente di una SPA e non poteva dirsi pubblico impiegato. Mi scusi, giudice Flaim, ma l'Auto Brennero SPA è un SPA, ma l'83% è a controllo pubblico, la regione ha il 32% e nomine vertici, quindi è un SPA pubblica, quasi. E poi il giudice continua: non si può poi sostenere che la condanna per quei reati contro la pubblica amministrazione sia sufficiente a far venir meno il rapporto di fiducia tra pubblica amministrazione e dipendente. Cioè, mi faccia capire, uno condannato per corruzione, truffa aggravata, tentata violenza privata, non è vero che mette in discussione il rapporto di fiducia tra pubblica amministrazione e dipendente? Perché, sostiene il giudice, è vero, lui fu corrotto e truffatore, ma difficilmente lo sarà in futuro. E qui andiamo da Lombroso a Freud, senza soluzione di continuità. Come fa a saperlo il giudice Flaim? Perché dice: le sue nuove mansioni, un controllo di regolarità su associazioni impegnate in progetti internazionali, sono diverse da quelle che lo fecero cadere in tentazione. Non avendo potere di rappresentanza della regione, verosimilmente mai si troverà a gestire in prima persona i contatti diretti con imprese appaltatrici o con esponenti di altre istituzioni, ed essendo sprovvisto di potere di spesa, verosimilmente mai si troverà a poter chiedere rimborsi all'ente datore per spese assunte nell'ambito di iniziative da lui stesso promosse. Allora, la posso tradurre? Non potendo più cadere in tentazione di corruzione perché non gestisce più i soldi, non riuscirà più a corrompere. Ma che vuol dire? Cioè, vuol dire che io affido l'asilo, non voglio fare esempi da questo, diciamo, vuol dire che uno che ha rubato, io affido comunque una banca, gli dico comunque può lavorare in quella banca, perché siccome a questo punto lui non ha l'accesso diretto più e non ha più le armi, non ruberà più. Ma io veramente è una sentenza che non capisco. Tant'è che la regione si è opposta, la provincia autonoma di Trento, ha detto non è possibile ridurre a bagatella la condanna definitiva per alcuni reati particolarmente gravi. Ma il giudice condanna la regione, qui siamo al massimo, e la obbliga a reintegrare Grisenti, oltre che a versare un risarcimento pari a un anno di stipendio più i contributi previdenziali e gli interessi. Perché dice il giudice la giusta causa di licenziamento è radicalmente insussistente. E ripeto, il giudice Giorgio Flaim lo giustifica, e leggo la sentenza, perché appunto riconosce che fu corrotto e truffatore, ma difficilmente lo sarà in futuro. Una cosa veramente, cioè, beccaria, la redenzione totale. Le nuove mansioni sono diverse da quelle che lo fecero cadere in tentazione. E non avendo potere di rappresentanza della regione, verosimilmente, perché poi gli può capitare anche lui per sbaglio di entrare in un ufficio, mai si troverà a gestire in prima persona i contatti diretti, quindi non potendo gestire i soldi e gli appalti non potrà corrompere. Beh, io penso che sia un capolavoro del diritto, nel senso che obiettivamente sì, se io non posso rubare o non posso corrompere è difficile che lo faccia, e questo è un buon motivo per reintegrarmi in un ente pubblico dove sono stato condannato per corruzione, la voglio dire l'ultima volta che non ci credevo quando ho letto questa notizia, corruzione, truffa aggravata e tentata violenza privata. Adesso, prima di avere le solite diffide, andate, fate le diffide ai giornali, alla stampa, scriveteci quello che volete. Non posso fare altri esempi perché sennò dalla diffida entro nella querela diretto e già, diciamo, non ne ha bisogno questa radio. Però insomma, ognuno ci faccia l'esempio che vuole, ma ripeto, non mi interessa il caso del singolo che è stato condannato a terzo grado di giudizio, quindi per la legge italiana è condannato, o dobbiamo obiettare anche sulla Cassazione. E l'hanno condannato a un anno, ok? Ma mi interessa il giudizio, la motivazione del giudice, che veramente è un capolavoro. Se tu non hai le possibilità di commettere un reato, quel reato non lo commetterai. Ho capito, ma mi hanno condannato per un reato, allora tutto il principio dell'integrità del funzionario pubblico va a farsi benedire sulla base di questo, no? Se io non ho più, non mi mettere più vicino ai soldi o a qualcos'altro, e io non commetterò più un reato. È un principio limpido. Figurati se lo applicassero in privato. Allora, traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Focus Economia. Ma poi la cosa sorprendente di questi racconti, ahimè, che facciamo da più di un anno in questi casi, è che basterebbe anche un po' di senso della vergogna delle volte, no? Nel senso, uno che è stato condannato, vale anche per il vitalizio, ma come fai a volere un vitalizio? Ho capito che è un tuo diritto, ma c'è un paese in ginocchio, metà dei pensionati hanno meno di 1.000 euro al mese, tu rompi le scatole legalmente, ci mancherebbe, per riaverlo indietro il Parlamento te lo vota pure, non parliamo di quell'altro che deve lavorare per forza, no, non ti basta una condanna, ma vai a lavorare nel privato. Nessuno te lo impedisce, ci mancherebbe, però nel pubblico, in una regione o in una provincia, no, niente, tutti a fare ricorso. Paese solo di diritti con pochissimi doveri questo. Comunque, dai, andiamo avanti perché vorrei risollevare il morale con la nostra startup della settimana, con chi si rimbocca le maniche e lancia un'impresa anche in questi anni di crisi. Alessandro Rossi, amministratore delegato e cofondatore di Alitech, buonasera. Buonasera a tutti. Oh, di dov'è lei, Rossi? Io sono nativo di Urbania, un paese di Pesaro vicino alla più conosciuta Urbino. E l'Alitech dove ha sede? L'Alitech ha sede in questo momento a Pisa, vicino a Pisa. E cosa fa? Beh, intanto è stata fondata diversi anni fa, perché ad aprile festeggiamo i primi 10 anni, Quindi 2006? Bene, bene. 2006, esattamente. Mm. E abbiamo iniziato fornendo dei servizi di ricerca e sviluppo per medie e grandi imprese. E che cosa producete, per far capire a tutti? Nel tempo siamo arrivati a produrre un prodotto abbastanza importante nel campo delle energie rinnovabili, che si chiama Butterfly, ed è un sistema di inseguimento solare su cui sono alloggiati dei pannelli a concentrazione. Tanto per capirci, il pannello a concentrazione riesce a ridurre la superficie attiva del materiale fotovoltaico tra le 100 e le 1000 volte, e ha un'efficienza che tra una volta e mezza e due volte il pannello tradizionale. Quindi sono pannelli fotovoltaici che hanno una grossa, sviluppano una grossa accumulo di energia, ma seguono anche il movimento del sole? Devono seguire il movimento del sole, perché in pratica ridurre la superficie attiva comporta la necessità di una lente, quindi questa lente deve sempre focalizzare sul quadratino di silicio ad alta tecnologia, e quindi serve puntarlo con molta accuratezza rispetto al sole. È un girasole, insomma. È un girasole a tutti gli effetti. Ecco, chi vi ha dato i soldi, intanto quanto fatturate o come sono andate le attività, ma chi vi ha dato i soldi per iniziare questa attività e come è nata? Beh, l'ultimo bilancio approvato, quindi è di circa 1 milione di euro. Noi l'attività l'abbiamo iniziata, come detto prima, nel 2006, contando su finanziamenti personali e di fatto sui proventi del lavoro, delle consulenze fatte ai nostri clienti. Sì. E in particolare il prodotto Butterfly è nato da un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, iniziato nel 2009, il progetto si chiamava SCOOP ed era capitanato da Enel. In questo progetto si mirava a creare una filiera del fotovoltaico a concentrazione tutta italiana. E noi, anche grazie a questo progetto, da un punto di vista di contatti, perché i finanziamenti poi sono arrivati con enorme ritardo quando il progetto era già finito da tempo, siamo riusciti a sviluppare questo prodotto e a entrare su questo mercato, su cui credo che siamo stati i maggiori installatori a livello nazionale. Quanti eravate in due all'inizio, adesso quanti siete? Adesso siamo una decina di persone tra dipendenti e collaboratori. Aiuti dalle banche, credito bancario, non ho tempo per la risposta. Resti con noi dopo il GR24 e prima dell'uccellaccio Sapelli. Vorrei capire se le banche le hanno dato una mano nel frattempo, negli ultimi periodi, e anche che tipo di concorrenza sta trovando, perché so che i cinesi sono fortissimi su questo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Digital Radio Flash. Ciao, sono Alessio. Ma la Digital Radio è una nuova radio? No, è un sistema nuovo per sentire la radio che ami con una marcia in più. Molte radio trasmettono già in digital, come questa per esempio. Ci puoi ascoltare con un suono perfetto. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Donne, tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al MUDEC di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Oh, I love you, Ken. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, sì, vedo che molti scrivono in merito a chi ha vinto la classifica della settimana, il reintegro, mi riferisco al reintegro e alla regione o provincia di Trento che non chiedeva il reintegro del dipendente condannato in via definitiva. Dicono sì, lui ha avuto il reintegro grazie al giudice che sostiene che non potendo più maneggiare, non essendo più nella stessa posizione, non maneggiando più appalti e contratti, non potrà reiterare il reato. Qualcuno scrive, allora con questa logica, visto che il giudice ha scritto una sentenza così, non potrà più scrivere un'altra sentenza così. No, ma molti fanno, non posso usare parolacce, molti fanno l'esempio dell'insegnante licenziato con tre figli, invece quello licenziato perché, dunque, la vicenda era di quanti anni prima? 11 anni prima aveva fatto la pipì su una siepe, gesto deprecabile, insomma. Però tra pipì sulla siepe e rubare, no? Magari avessimo una classe, diciamo, politica che come grande reato compie la pipì sulla siepe, avremmo i bossi un po' ingialliti, ma un paese un po' più sano, non so. Allora, volevo chiudere invece con chi? Con il nostro ospite della settimana come startup, Alessandro Rossi, amministratore delegato e cofondatore di Alitech. Chi vi ha aiutato? Il Ministero, 700.000 euro di finanziamento, e chi vi sta... le banche vi stanno finanziando in questo periodo, visto che avete anche la concorrenza dei pannelli solari cinesi. Devo dire, correggere però una castroneria che ho detto, non è la prima, non sarà l'ultima. In effetti il pannello fotovoltaico che segue il sole, mi scrive un ascoltatore, è una stella fissa, siamo noi che giriamo attorno, ha ragione, diciamo, sono sto pregalileiano, mettiamolo così, tolomaico. Allora, le banche vi aiutano e la concorrenza cinese, prego. Le banche, noi nei nostri 10 anni di vita non abbiamo mai chiesto un euro di finanziamento alle banche, mai ottenuto, a dire la verità. In realtà 2 anni fa abbiamo provato per partecipare a un progetto internazionale per un campo fotovoltaico di dimensioni generose ad accedere a un finanziamento bancario. Purtroppo l'esperienza non è stata positiva. Perché innanzitutto i tempi di risposta, chiedere un finanziamento e ottenere una risposta, seppur positiva, dopo 2 mesi è un tempo non compatibile con le dinamiche industriali che ci sono attualmente a livello internazionale. E l'altro fattore è l'effetto leva, cioè quanto la banca finanzia sulla base di quello che può investire l'industriale. Detto 100, quello che può investire l'industriale, la banca era disposta a fornircene altri 100, quindi un effetto leva di 2, e questo dopo 2 mesi di tempo per decidere, sono tempi troppo lunghi. Noi abbiamo esperienze internazionali dove i tempi per decidere sono qualche giorno e l'effetto leva è normale ottenerlo 5, cioè fatto 100 quello che investe l'industriale, la banca ne mette altri 400. E quindi dà un impulso notevole a quelli che sono i progetti industriali, che chiaramente devono avere un fondamento solido, però un effetto leva 5 porta ad una possibilità di crescita per l'industria che è molto più forte che non un effetto questo, leva 2. Questo sa va san dire. Allora, in bocca al lupo, quanti dipendenti siete adesso? 10, mi diceva prima? Sì, una decina. Ma li ha assunti? Sono partite IVA, collaboratori? Come? No, principalmente sono assunti. Alcuni collaboratori, siccome non riusciamo a impiegarli al 100%, semplicemente perché le attività loro connesse sono impiegate per qualche mese uomo all'anno, sono magari liberi professionisti, li chiamiamo secondo necessità. Quindi non riuscendo a impiegare totalmente questi collaboratori, li chiamiamo quando servono. Gli altri sono tutti assunti, normalmente noi abbiamo solo personale assunto, almeno per quelle figure che riusciamo a impiegare al 100% durante l'anno. Allora, in bocca al lupo a lei e soprattutto ai 10 dipendenti, a lei e alla sua socia Laura Botti e ai 10 dipendenti di Alitech. Speriamo appunto che riusciate a contrastare anche la concorrenza cinese. So che la qualità dei pannelli fotovoltaici cinesi non è granché, però... poi la concorrenza si fa anche sul prezzo. Grazie, e noi passiamo rapidamente alla borsa perché poi ci aspetta l'uccellaccio Sapelli. Allora, Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Meno 2,13% anche oggi, per non farci mancare nulla. Parigi meno 0,66%, Francoforte meno 1,14%, Londra meno 0,90%, l'America meno 1,20%, quindi borse che si sono indebolite, devo dire, a metà giornata. Il petrolio aveva corretto anche i prezzi. Le notizie, se vogliamo, da noi riguardano soprattutto alcuni rialzi. Mi riferisco a CNH Industrial più 6,30%, oggi recupera qualcosa a Monte dei Paschi più 3,5%, e UbiBanca più 2%, Tenaris più 1,80%, Buzzi Unicem più 1,1%, Fiat Chrysler pure guadagna l'1,1%, e appunto Banca Mediolanum un più 3,70%. CNH Industrial. Beh, cioè neanche Industrial oggi è stata protagonista di questo balzo che secondo gli analisti è dovuto soprattutto alle indicazioni che sono arrivate sul 2015 dal gruppo svedese Volvo, in particolare sull'andamento della domanda di autocarri che è in miglioramento in Europa anche se si soffre nel Nord America. È un titolo spesso indebolito proprio dalla questione dei macchinari agricoli, quando arriva qualche buon riscontro come questo di Volvo il titolo reagisce positivamente, anche se in generale gli analisti sono abbastanza cauti su questo settore. Allora, per quello che riguarda gli altri titoli, noto che invece Finmeccanica, al di là di Saipem, è oggi il peggior titolo tra quelli a maggiore capitalizzazione, meno 5,91%. Qui ci sono sia voci di una possibile inchiesta della Procura che i ritardi dell'acquisto di 28 Eurofighter in Kuwait, se ho ben capito? Sì, certamente oggi ha tenuto banco questa questione del Kuwait, perché? Perché sono circolate proprio dalla stampa locale in Kuwait delle indiscrezioni secondo cui era in dubbio il contratto di fornitura di 28 velivoli Eurofighter per problemi di carattere tecnico e di vario tipo. Il titolo e quindi nel timore che slittasse o che addirittura fosse cancellato questo contratto, il titolo è arrivato a perdere quasi l'8% nel pomeriggio, dopodiché c'è stato l'intervento del ministro della difesa Roberta Pinotti che ha destituito di fondamento le indiscrezioni smentendo queste ipotesi e confermando quanto raggiunto nell'accordo nei giorni scorsi con il ministro della difesa Kuwait, secondo il quale il contratto si dovrà siglare. Il titolo ha un po' recuperato ma non è stato sufficiente, ha perso comunque quasi il 6%. Allora, ancora sui titoli, male oltre a Finmeccanica, la Pop Milano meno 5,70% e anche il Banco Popolare calo analogo, Poste Italiane meno 5,5%, Unipol meno 4,5%, Moncler meno 4,20% come Jux Net-a-Porter, Telecom Italia meno 3,90% come Unipol Sai e Intesa San Paolo. Nonostante l'utile che sale a 2,73 miliardi di euro e sarebbe stato di 3 miliardi senza il contributo al fondo di risoluzione banche, quello utilizzato per salvare anche le quattro banche, e il dividendo 2 miliardi e 400 milioni. La borsa l'aveva già scontato, ma se sì, quando? Perché non è che veniamo da giornate esaltanti. No, nella borsa certamente aveva previsto un dividendo importante, ma è stato migliore delle attese, ma l'uscita dei conti è coinciso con un timido rialzo di Intesa San Paolo, in parte perché gli osservatori sono stati un po' a vedere questo quarto trimestre deludente con un utile netto in deciso calo di Intesa San Paolo a 13 milioni rispetto a 48 milioni. Inoltre l'uscita dei conti Intesa è un po' coincisa con il dietrofront del mercato, quindi con il momento peggiore, tu ricordavi, a metà giornata il dietrofront del mercato, complice anche dati americani che sembrano spingere la Fed per un nuovo rialzo dei tassi, e questo ha un po' travolto Intesa San Paolo e le buone notizie si sono perse nell'andamento generale dei mercati. Industria e innovazione, miglior titolo più 8,10%, CNH Industrial appunto più 6,30%, Invest più 5,50%, Caleffi più 4,5%. Il peggior titolo invece Landi Renzo meno 20%, Zucchi meno 19%, IKF meno 15%, Geox meno 9%. Grazie, buon fine settimana ai colleghi di Radio Corriere sulle 24 ore, quindi Andrea Fontana nello specifico traffico. Focus Economia. torna per la prima volta live nel 2016 l'uccellaccio Giulio Sapelli, che al Secolo insegna anche prosaicamente storia dell'economia all'Università Statale di Milano. Buonasera Sapelli. Come si deve dire insegna prosaicamente? Prosaicamente rispetto ai temi, volevo umanizzarla. No, invece devo dire una cosa, che io non ho mai detto tolomaico, ho detto tolemaico. Questo non, mi correggo quando sbaglio, ma visto che ho Sapelli che aleggia. Allora, visto, abbiamo parlato di falchi, lei non lo sa, ma il Comune di Noto vuole combattere i piccioni con i falconieri, e gli hanno fatto notare che non è, che non è, 20.000 euro sprecati. No, ma veniamo alla settimana di politica economica, che poi è un brutto mese quello che è iniziato. Borse giù, prima la Cina, poi il petrolio, e la sensazione che i cali bancari italiani, tutti hanno negato che vi fosse una mano dietro, ma insomma la coincidenza tra lo scontro con Bruxelles e il pessimismo sulle banche italiane. Partiamo dallo scontro con Bruxelles. Oggi non si segnalano novità se non la telefonata Renzi Hollande. C'è chi dice bene ha fatto il Presidente del Consiglio, perché alzare i toni serve, visto quello che abbiamo tenuto in questi anni a essere troppo proni supini, sintetizzo rapidamente. E c'è chi dice, come per esempio anche la nostra corrispondente da Bruxelles, attenzione, in Europa questi modi rischiano di irrigidire tutta la trattativa. L'Italia spesso si presenta all'ultimo minuto o fuori zona massima, fuori tempo massimo, su decisioni già prese che lei ha approvato. Si risulta poco credibili, meglio lavorare a margine degli incontri, in maniera meno plateale, meno cercando lo scontro, sennò poi crei un irrigidimento. Sapelli. Ma io quello che vorrei dire è questo: naturalmente c'è bisogno di più capacità diplomatica, c'è più l'arte della diplomazia, ad esempio anche questi recenti avvenimenti di cambiare il nostro ambasciatore, anche se abbiamo un uomo di altissimo livello come l'onorevole Calenda, però lì questa cosa mi sembra che sia stata fatta in un modo personalmente non attento alle esigenze anche della stessa Farnesina, degli equilibri diplomatici. Il problema vero però che sta emergendo, e anche questa cosa del Kuwait bisognerebbe vederla anche in questa luce, è che vede il conflitto tra le nazioni europee, perché il problema vero è questo: c'è una tecnostruttura che sembra che abbia dimenticato le nazioni, ma le economie, nonostante la globalizzazione dei mercati e il mercato unico, sono ancora nazionali. Allora il fatto che Renzi sia isolato e che trovi questo isolamento in coloro che dovrebbero essere i suoi primi alleati, Moscovici ad esempio, non ha delle radici europee, ha delle radici nordafricane. Nordafricane. Vero, ma certamente è il conflitto su chi deve comandare in Libia, in Tunisia e in Marocco. No, mi faccia capire, sempre... lei sta dicendo che se la Francia, andiamo con nomi e cognomi, certo, non ha appoggiato Renzi, ne avrebbe tutti gli interessi, perché la Francia ha un deficit al 4%. Perché vuole cacciarci dalla Libia, come ha già tentato diverse volte. Lei sa, scusi, appena abbiamo firmato questo accordo libico, che avrà tanti difetti, ma è un grande passo avanti ed è un frutto, oltre che del rappresentante tedesco dell'ONU, della nostra diplomazia e dell'azione che abbiamo fatto, guarda caso ci sono stati dei bombardamenti che non si sapeva chi li avevano fatti. Oppure ci sono continuamente delle dichiarazioni francesi, inglesi, che dicono che in Libia però bisogna intervenire militarmente. Lei sa benissimo, lo sanno anche gli ascoltatori, che se interveniamo militarmente in Libia adesso, dove il problema vero sono le milizie, l'un contro l'altro armate, e quindi si interviene contro qualcuno a favore di altri, l'accordo salta, e questo vuol dire che indebolisce l'Italia. Problema vero è che bisogna cominciare a pensare all'Europa inserita veramente nel Mediterraneo. Oggi c'è una battaglia che non è soltanto rispetto all'energia, ma è rispetto al fatto che quei paesi stanno uscendo da un'economia fondata soltanto sul petrolio, su un'economia anche di beni intermedi, di beni strumentali, tra cui anche le armi, e chi vincerà questa battaglia proprio dal punto di vista dei rapporti commerciali. E su questo si cerca di indebolire gli avversari anche in Europa. L'Europa non è una questione che interessi solo gli europei, per questo io ho fatto la proposta che Renzi deve indire una conferenza internazionale sull'Europa, l'Europa e il Mediterraneo, a cui partecipano anche gli Stati Uniti, i russi e la Cina. perché sennò la concorrenza contro Renzi, l'isolamento di Renzi non deriva dalle schermaglie, dal fatto che uno si presenti prima, è che ci sono grandi interessi europei che adesso si stanno riversando nel Nord Africa, perché lì sta cambiando tutto il grande Medio Oriente. Questo i nostri osservatori non se ne accorgono, non c'è solo la questione dei migranti. La questione dei migranti, questione umanitaria, penosa, terribile, dilacerante, è come però un paravento, un fumo che fa dimenticare anche gli interessi economici e strategici che ci sono. E l'Italia ha le sue forti radici e le altre potenze europee vogliono cacciarci di lì. Ma questa è una storia che inizia dall'Ottocento, continua per tutto il Novecento, chiunque abbia un po' di storia, so che oggi la storia non la sa più nessuno, ma però il conflitto italo-francese comincia. Però adesso, non so, io capisco, cioè, questo giustificherebbe il perché la Francia sia così freddina, al di là della telefonata di oggi tra Hollande e Renzi, nel dire, beh, insomma, l'Italia ha ragione, basta con questa Europa tutta sull'austerità in cui i tedeschi danno sempre lezioni agli altri. L'obiettivo dello scontro però sembrava la Germania, o meglio un'Europa a trazione tedesca, perché lo scontro con Juncker, poi Juncker dice che ha iniziato Renzi dice che era stufo di... non mi interessa, scusi, chi ha iniziato. Barisoni, sì. Scusi Barisoni, lei sa benissimo che io sono stato uno tra i primi a sollevare questa questione. Sì, certo. A parlare dell'ordo liberalismus. Teutonico. Questa dottrina teutonica, che cosa vuol dire? Imporre la deflazione, quello che ha detto Draghi l'altro giorno, no? Draghi con un grande coraggio ha detto: guardate che qui c'è qualcuno che lavora per costringersi sempre, quindi, in deflazione. Quindi era la cospirazione, non era la concorrenza. No, non è una cospirazione, lì se uno legge bene quel conspiracy vuol anche dire forse concorre, che concorrono. Anche secondo noi. Secondo me è fuori dalla mentalità di un uomo come Draghi di parlare di cospirazione. No, ci sono dei rapporti. Allora, i tedeschi cosa fanno? Scusi, gli operai tedeschi, i sindacati tedeschi adesso hanno chiesto un aumento del 5% del loro salario. Fanno benissimo. Ma questo aumento del 5% sarà a spese dei lavoratori di tutta l'altra Europa, perché se aumentano i costi di produzione in Germania per mantenere il surplus commerciale, bisognerà ridurre i salari in tutta Europa, in tutti i paesi che producono merci utili per le esportazioni tedesche. Questa è la deflazione, ci aggiunga il petrolio e la guerra dell'Arabia Saudita e vedi che c'è un quadro globale, economico, politico, strategico. Non sono schermaglie tra Juncker, Moscovici e Renzi, è in gioco la collocazione internazionale dell'Europa e chi comanderà l'Europa rispetto al Nord Africa, che si sta ricostruendo e sta uscendo lentamente dalla monocultura petrolifera. Mi dica un'ultima cosa, però allora per capire, allora ha fatto bene il Presidente del Consiglio a porre il tema, perché sennò... Certo, ha fatto benissimo a fare il viaggio in Centrafrica, naturalmente questo ha fatto arrabbiare da morire i francesi. Ah beh, soprattutto la parte diciamo francofona del viaggio. La parte francofona, poi in Nigeria no, perché lì è una nazione inglese, cioè una nazione, voglio dire, poi noi siamo presenti da 50 anni tramite l'Emili. Però anche questo viaggio non l'ha aiutato nei rapporti con i francesi. Quindi bisognerebbe avere una visione un po' meno da buco della serratura delle porte di Bruxelles. Quindi secondo lei l'approccio di Prodi, per esempio, che dice bisogna trovare nella Francia un alleato, è ingenuo in quelli che sono... È impossibile, sarebbe bellissimo ma è impossibile. Finché i socialisti tedeschi, i socialisti francesi continuano, imitando i socialisti tedeschi, a essere prima francesi e prima tedeschi che socialisti, sarà impossibile. Bene, grazie. No, mi interessava questa lettura perché siamo usciti, come lei spesso ci fa fare, a torto, ragione che abbia, non mi interessa, dalla lettura, diciamo, della... No, adesso non è che può sempre avere ragione pure lei. Ma no, scherzo. Però dico, dalla lettura cronachistica, cioè della quotidianità di questi rapporti, botta e risposta, per uno scenario più complessivo che riguarda la cosiddetta geopolitica, se ancora si può usare questo termine. D'accordo con lei che il viaggio in Africa, anche per altri motivi, andasse... ed è il terzo e andasse fatto. Voli via e voli nel suo weekend. Grazie a Giulio Sapelli, grazie a lei, carissimo docente amico di storia dell'economia alla Statale di Milano. Un ringraziamento come sempre anche a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza anche questa settimana nel programma. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di un buon fine settimana, soprattutto